giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Tra 48 ore ritornano i controlli alla frontiera con la Slovenia. Domani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per definire le modalità. Censimento da parte delle forze dell'ordine all'ex caserma Cavarzerani di Udine. La struttura ospita più di 500 migranti. Percepivano il reddito di cittadinanza e l'indennità di disoccupazione. Nel contempo lavoravano in nero. I controlli della Guardia di Finanza di Pordenone hanno portato a scoprire 3 lavoratori irregolari. 50 milioni di euro il valore dell'esportazione dal Friuli Venezia Giulia verso Israele nel primo semestre di quest'anno, 10 milioni in più rispetto al 2022 secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. E il trend è in crescita, il comparto del mobile da solo con i suoi 20 milioni vale quasi un quarto delle esportazioni con Israele. Al binario 7 della stazione di Trieste è arrivato il treno dei medici con l'Africa Quam, la più antica organizzazione non governativa in campo sanitario d'Italia, per fornire soccorso e assistenza alla salute nei paesi africani. La storia di Daniela, giovane allevatrice di Carlino, che ha ereditato dalla famiglia la passione per l'allevamento e ora si è trasformato in un'attività, un lavoro diventato apprezzatissimo sui social. Ancora buongiorno da Maria Spezia e Sebastiano Franco. Da sabato i controlli al confine con la Slovenia. Domani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per stabilire le modalità della messa in pratica della decisione del governo italiano in seguito all'allarme terrorismo. Il via vai di auto e camion che siamo abituati a vedere nei valichi di confine non sarà così fluido più tra meno di 48 ore quando, per volontà del governo, saranno ripristinati i confini tra Italia e Slovenia. Da sabato dunque sospesa Schengen a seguito della grave crisi in Medio Oriente e al crescente rischio terrorismo. A preoccupare la rotta balcanica, i 16.000 ingressi di stranieri registrati quest'anno su questo confine, 140 uomini da esercito e polizia verranno inviati da Roma a supporto delle forze locali, fa sapere il prefetto Antonio Signoriello, che prevede una sorveglianza ai 5 valichi principali e anche ai 16 secondari attiva 24 ore su 24. A tutti verranno richiesti documenti, anche quindi alle migliaia di transfrontalieri abituati dal 2007 con l'ingresso della Slovenia in area Schengen a viaggiare quotidianamente in Friuli Venezia Giulia. L'assessore all'immigrazione per Paolo Roberti, chiediamo se sarà una chiusura fisica come già abbiamo visto in epoca Covid oppure no. Beh, assolutamente no. Quello che è successo con la Slovenia serviva per impedire il transito di chiunque passasse da quelle parti, quindi c'è stato un blocco totale, addirittura fisico, con dei massi che sono stati posizionati dalla Slovenia in mezzo alla strada per impedire appunto il passaggio. Qui stiamo parlando di qualcosa di diverso, bisogna semplicemente controllare chi passa, essere sicuri che chi sta passando non è in alcun modo una minaccia per il territorio italiano, per lo Stato italiano. Purtroppo quello che è successo anche a Bruxelles ci fa capire che evidentemente quella minaccia esiste. Quel lupo solitario che ha imbracciato da solo, senza un'organizzazione alle spalle, un Kalashnikov per sparare a 2 tifosi a caso trovati in città a Bruxelles, evidentemente ci fa pensare che c'è questo rischio e quel rischio viene alimentato dalle tensioni di carattere internazionale che si sono venute a creare nel momento in cui Hamas ha deciso di scatenare un'offensiva contro lo Stato di Israele. Trieste, Andavi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. E su questo argomento il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha inviato una lettera al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, esprimendo l'auspicio che questa misura annunciata della durata di 10 giorni possa essere sufficiente come deterrente per arginare il transito illegale di migliaia di migranti in Italia, tra cui anche potenziali terroristi, ha scritto Ziberna. Il sindaco ha voluto anche invitare il ministro a considerare come i territori di Gorizia e Nova Gorizia non possano vedere interrotte le loro frequentazioni per il continuo scambio di relazioni di lavoratori. Scoperti dalla Guardia di Finanza nel Pordenonese 3 lavoratori in nero che continuavano indebitamente a percepire le indennità mensili, reddito di cittadinanza in 2 casi e NASPI. Percepivano il reddito di cittadinanza e l'indennità di disoccupazione e nel contempo lavoravano in nero. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pordenone ha individuato 3 lavoratori irregolari nel corso di ordinari controlli eseguiti presso imprese che operano nel settore della ristorazione, del commercio di rottami e di giardinaggio. Un fenomeno che pesa sempre più anche in Friuli Occidentale. Il comandante della Guardia di Finanza di Pordenone, Davide Cardia. Un fenomeno effettivamente in crescita nel territorio del Friuli Occidentale. Siamo quasi a 200 lavoratori irregolari scoperti dall'inizio dell'anno, 174 completamente in nero e 23 irregolari. In questo caso i 3 lavoratori erano percettori, 2 di reddito di cittadinanza, un italiano e un colombiano, e uno della NASPI, l'indennità di disoccupazione. Quali sono i settori più a rischio? In una provincia ad alta vocazione agricola ovviamente l'agricoltura fa la parte del leone, segue subito dopo la ristorazione e in realtà tutti gli altri settori con numeri più piccoli, a dimostrazione che questo fenomeno affligge effettivamente qualunque realtà imprenditoriale e produttiva della provincia di Pordenone. Che cosa si rischia? Quali sono le sanzioni? La sanzione minima per un lavoratore in nero è, per il datore di lavoro, 1.800 euro in su, a salire. Chiaramente la diffida comporta anche l'eventuale sospensione dell'attività laddove i lavoratori in nero siano più del 10% dei lavoratori regolarmente occupati. E per prevenire il fenomeno, come Guardia di Finanza avete anche incontrato le categorie? Abbiamo un rapporto continuo con l'associazione di categoria e con i sindacati, proprio per sensibilizzare tutti i loro aderenti al maggior rispetto delle regole, nella salvaguardia in primis dei lavoratori, che sono le risorse più importanti, ed in secondo piano anche di un'immagine della provincia, che è quella di un'immagine produttiva di un territorio operoso. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. All'ex caserma Cavarzerarin di Udine è in corso un controllo delle forze dell'ordine che include una sorta di censimento su tutte le persone accolte nel comprensorio dell'ex caserma. La struttura al momento ospita più di 500 migranti. Mattinata di controlli da parte delle forze dell'ordine all'ex caserma Cavarzerani di via Cividale a Udine per verificare numero e titolo di permanenza delle persone presenti. Intorno alle 7.30 almeno una trentina di uomini tra polizia con il supporto del reparto mobile, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza hanno effettuato una sorta di censimento di tutte le persone accolte nel comprensorio della caserma che si trova alla periferia est di Udine. Nel corso dei controlli allontanati alcuni migranti, ospiti della struttura, senza nessun titolo per rimanere, altri sono stati caricati in dei pulmini della polizia e portati fuori, a supporto dei controlli anche i cinofili della Guardia di Finanza. Sono 540 gli ospiti effettivi della struttura. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Cronaca, un 53enne accusato di due rapine ai danni di anziani è stato arrestato dai carabinieri di Monfalcone. Il 31 luglio scorso avrebbe aggredito una ultra settantenne nel portone di casa e derubata della borsa contenente denaro contante, il telefono cellulare e le carte di credito. La ricostruzione della vicenda è suffragata dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Poco meno di una settimana dopo, la rapina della borsa ad un'altra anziana. Nel corso della perquisizione presso il domicilio dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto l'abbigliamento utilizzato per commettere le rapine ed alcune centinaia di euro occultate all'interno dell'armadio della camera da letto, verosimilmente provente delle rapine commesse. Indiziato dei reati di rapina aggravata e lesioni personali, l'uomo è stato tradotto nel carcere di Belluno. Ancora cronaca, la polizia di Udine ha arrestato un 45enne italiano in esecuzione di un provvedimento che prevede 2 anni di reclusione per eventi predatori. Ha arrestato poi un 63enne che deve scontare una condanna di 5 anni per truffe e reati contro la pubblica amministrazione. Eseguiti inoltre 12 provvedimenti di collocamento in regime di detenzione domiciliare a connazionali stranieri condannati a vario titolo. Infine, l'8 ottobre scorso è stato rintracciato dalla polizia belga un cittadino rumeno di 37 anni condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio. La pagina del tempo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 17 gradi e 5 decimi, Pordenone 15 gradi, Udine Gorizia 14 gradi e 5 decimi, Tarvisio 12 gradi, Forni di Sopra, Tolmezzo 10 gradi e mezzo, Piancavallo 9 gradi e 5 decimi, Sappada 8 gradi, Montelussari 7 gradi e 5 decimi, Monte Zoncolana 7 gradi, Agrado 15 gradi e 5 decimi, Alignano 15 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per questo pomeriggio: cielo da nuvoloso a coperto, sulle zone occidentali piogge in genere moderate, sulla fascia orientale, specie su Coste, Esontino, Carso e Cividalese, piogge intermittenti da abbondanti a intense, anche temporalesche, saranno possibili localmente piogge stazionarie molto intense. Sulla costa, specie sul settore orientale del Golfo di Trieste, soffierà vento anche sostenuto da sud con possibili acque alte e mareggiate. Sui monti in quota soffierà vento sostenuto da sud-ovest. E ricordiamo che è ancora vigente l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile Regionale, in vigore fino alla mezzanotte di oggi. A Trieste alle 10 del mattino erano già caduti 20 mm di pioggia, molto meno invece a Udine e Pordenone. È arrivato alla stazione di Trieste il treno della salute. Per chi sale, controlli per la propria salute, screening, prevenzione e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato. Una speciale iniziativa di divulgazione sanitaria realizzata da Medici con l'Africa Quam. Prevenzione e solidarietà viaggiano a braccetto sul treno dei Medici con l'Africa QAM, la più antica organizzazione non governativa in campo sanitario d'Italia che fornisce soccorso e assistenza alla salute nei paesi africani. Oggi il treno fa tappa al binario 7 di Trieste Centrale, domani invece si fermerà alla stazione di Udine. Nicola Penzo, responsabile nord-est di Medici con l'Africa QAM. È aperto a tutta la popolazione e si possono fare delle visite di screening, una valutazione dello stato di salute, una valutazione dello stile di vita e degli piccoli screening dalla misurazione della pressione, la glicemia, l'elettrocardiogramma. È una bellissima occasione questa del treno per raccontare il QAM cosa fa oggi e che cosa fa da ormai oltre 70 anni. Noi in Africa ci occupiamo di sanità, lavoriamo in 8 paesi dell'Africa subsahariana e stiamo cercando di aiutare dal punto di vista della formazione il sistema sanitario, quindi attraverso la formazione su tutti i livelli, a livello universitario nelle facoltà di medicina, a livello di scuole infermiere e ostetriche, fino ad arrivare agli operatori di comunità che lavorano nell'ultimo miglio dei sistemi sanitari africani. Un'occasione, insomma, per far del bene agli altri sostenendo il QAM, oltre che far del bene a se stessi, approfittando dell'occasione di uno screening in più. Fondamentale la collaborazione dei ferrovieri che portano in giro questo treno della salute. Nicola Samà, presidente del gruppo Ferrovieri con l'Africa. Abbiamo chiesto al QAM come potevamo essere utili per cercare di dare una mano. E quindi, diciamo così, abbiamo tirato fuori lo spirito solidaristico che i ferrovieri hanno sempre avuto. Così nasce l'idea di, invece di portare la gente nelle destinazioni, portiamo alla gente qualcosa di diverso. E nasce l'idea del treno. Si vuole portare un messaggio che è fortissimo ed è quello della salute globale. Nello stesso tempo si vuole portare il messaggio che la salute deve essere un diritto di tutti, che non ha colori, non ha razze. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora un appuntamento di oggi, giornata della genetica, test genetici nel tumore della mammella e l'incontro che si svolgerà nella sala del Trugovski Dom in Corso Verdi a Gorizia alle 18. Focus ora dei rapporti economici della nostra regione con Israele, un trend in crescita secondo i dati di Confapi. 50 milioni di euro il valore delle esportazioni verso Israele nel primo semestre di quest'anno, secondo gli ultimi dati Istat disponibili, 10 milioni in più dello stesso periodo dello scorso anno, che nei 12 mesi ha registrato 84 milioni di esportazioni, lo 0,4% dell'export totale della regione di 22 miliardi raggiunto nello stesso anno. A trainare gli interscambi il comparto del mobile, 20 milioni, seguono su volumi più ridotti i settori dei macchinari e dei prodotti alimentari. Nel post-Covid, nonostante le tensioni ricorrenti, andava bene anche il turismo, secondo quanto riportano i principali tour operator del Triveneto, come Yacht per i pellegrinaggi e Abaco Viaggi per i tour di gruppo culturali, che in media all'anno faceva partire 400 corregionali. Nel complesso non grandi numeri, ma comunque significativi sul fronte delle relazioni economiche e non solo con l'area medio orientale del vicino Oriente. Non si tratta di rapporti occasionali ma consolidati, sottolinea il presidente di Confapi Friuli Venezia Giulia, Massimo Paniccia, che ricorda: esportiamo tecnologie e beni non facilmente sostituibili da altri, in primis nel campo dell'oil and gas, delle grandi infrastrutture, degli impianti industriali. Panici al momento non teme la concorrenza quanto i cambiamenti radicali della situazione nel breve medio periodo, con esiti per la nostra economia imprevedibili. Dello stesso segno Confindustria, che rammenta anche la presenza di imprese a capitale israeliano nel ramo dell'elettronica nell'area Giuliano-Esontina. La regione sta monitorando l'evoluzione della situazione ed è pronta a intervenire a fianco delle imprese che dovessero subire danni a causa del conflitto in corso, assicura l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, che sottolinea anche gli accresciuti legami istituzionali con Israele. Da ultimo la collaborazione avviata dal presidente Fedriga con Modin, la città più smart di un paese divenuto frontiera dell'high-tech, cooperazione che investe i campi della ricerca, dell'alta formazione, dell'innovazione tecnologica anche sul fronte dell'utilizzo della risorsa acqua, oggi sempre più scarsa. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sulle pagine del quotidiano Milano Finanza è stata pubblicata la notizia dell'ingresso di nuovi soci nella compagine Nord-Est Multimedia, che si appresta ad acquisire dal gruppo Gedi, tra gli altri, quotidiani Messaggero Veneto e Piccolo. Nella cordata di imprenditori guidata da Enrico Marchi, secondo quanto scrive MF, starebbero per entrare Confindustria Udine e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. La notizia del quotidiano economico è stata confermata da parte sua da Confindustria Udine, che si unirà al gruppo insieme ad Ance Udine, l'associazione costruttori, con il 9,3% delle quote societarie. L'ingresso è stato deciso perché si tratta di uno strumento legato al mondo e al tessuto produttivo del Triveneto, rivela Confindustria Udine. Invece, in merito a quanto scritto da Milano Finanza, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste non intende per ora rilasciare commenti. La storia di Daniela, giovane allevatrice di Carlino, che ha ereditato dalla famiglia la passione per l'allevamento, che è diventato lavoro. Un lavoro poco social, che è diventato però apprezzatissimo proprio sui social grazie ad un'intuizione. La tradizione e il futuro, l'orgoglio e la speranza. Daniela Battaglia, nel cognome, l'attitudine. 24 anni di Carlino, scorza dura, animo leggero e negli occhi la scintilla della passione, quella per l'allevamento. Due sorelle che hanno scelto altre strade, lei no, e le sue battaglie sono quotidiane. 160 capi di bestiame da seguire tutti i giorni con papà Claudio per avere tutti i giorni tanto latte di alta qualità. L'ultima battaglia vinta, Iga, nata prematura e col destino segnato, tirata su con amore e dedizione. Si fa per passione questa vita, racconta Daniela, che ogni mattina si presenta nella stalla prima dell'alba. Comincio alle 5:30-6 di mattina, faccio colazione, scendo in stalla a mungere le vacche con mio padre, alleviamo vacche di pezzata rossa, fanno un latte particolarmente dedito per la produzione di formaggi perché è di alta qualità. Daniela, generazione Z, mostra la sua passione e il suo orgoglio di allevatrice sui social. Sarà un annetto che ho aperto una pagina Instagram che si chiama Cow Manager. Devo dire che nel mio piccolo sto dando un contributo a far vedere che anche le donne in agricoltura possono fare, che non serve necessariamente la forza, ma la tecnica, intelligenza, come ce l'hanno tutti, e minuziosità, che è quello che serve per poi produrre buon latte di qualità. Il maltempo di luglio ha distrutto la stalla di Carlino, niente paura. Tutti trasferiti, prima di tutti le mucche, in un'azienda nel vicino Veneto e via, ripartire. È dura, ma un futuro è possibile. Assieme a mio padre, ma anche al mio compagno, che è agricoltore, pensavamo di pian piano, con i risparmi, espandere un po' l'azienda, comprare qualche terreno, aumentare le vacche e poter comprare, anche con gli incentivi che ci sono per i giovani agricoltori, dei robot di mungitura per aumentare la qualità del latte e della vita delle nostre vacche. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora della Casa delle Farfalle di Bordano, che si afferma sempre più come attrazione turistica anche per chi viene dall'estero e allo stesso tempo ha intensificato le attività di ricerca. È stata di gran lunga la miglior stagione di sempre, da ogni punto di vista. E quanto si legge nel comunicato di fine stagione della Casa delle Farfalle di Bordano, che festeggia i 20 anni dell'apertura e può vantare una posizione di rispetto tra le attrazioni turistiche della regione. A parlare per primi sono i numeri. Nelle sere quest'anno sono entrate 48.500 persone provenienti dalla regione e da ogni parte d'Italia, per non dire di Austria, Slovenia e Germania. Tra questi sono più di 7.000 i ragazzi e le ragazze delle scuole, coinvolti in più di 500 tra laboratori e visite guidate. Grandi numeri anche allo shop, che propone produzioni proprie, tra cui la guida dalla Casa delle Farfalle, che ha reso il 40% più dello scorso anno e circa il doppio di quanto incassava 10 anni fa. I chioschi poi hanno fatturato nel 2023 il 20% in più dello scorso anno, ma più del 400% rispetto a 10 anni fa, con la creazione di un vero e proprio modello di proposta gastronomica locale. Da qui il progetto di lavori di ampliamento, con la costruzione e l'allestimento di una nuova cucina e un bar. La Casa delle Farfalle, come sottolinea il direttore, sta diventando un centro in cui si fa ricerca, insieme alle università di Udine e di Trieste. Quest'anno 3 tesi di diverse facoltà hanno riguardato i progetti portati avanti alla casa, affiancati da tirocini e stage. La Casa delle Farfalle è chiusa per i lavori di manutenzione e ampliamento e riaprirà ai visitatori il prossimo marzo. Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Beach Sprint, una nuova specialità del canottaggio. Due atlete triestine del Saturnia sono diventate campionesse del mondo. La dura vita da sportive a 17 anni. Campionesse del mondo a 17 anni, in una disciplina nuova sono Vittoria Pastorelli e Maria Vittoria Krevatin, iridate di beach sprint, candidate a entrare ai giochi del 2028 nel programma olimpico. Il successo ce l'hanno nel nome, ma è frutto di sacrifici, allenamenti la mattina presto, prima di scuola, quando i compagni non si sono nemmeno alzati dal letto. Probabilmente ancora dormono negli orari in cui noi ci svegliamo, di solito facciamo allenamento alle 5:30 d'inverno prima di scuola. E poi arriviamo a scuola che siamo già svegli rispetto agli altri. Alle volte bisogna andare a dormire tardi perché bisogna studiare, la mattina bisogna svegliarsi presto, quindi si è molto stanchi, però se si organizza, secondo me si riesce a far tutto. Proprio a scuola ci sono le difficoltà più grandi, non tutti i professori sono infatti comprensivi e approvano gli impegni sportivi. Certi prof sanno cosa faccio e anche quanto faccio, e diciamo che alle volte mi vengono molto incontro, mentre altri non so, alle volte mi sento un pochino abbandonata da loro. Invece faccio l'istituto nautico e comunque sempre essendo in ambiente di mare sono molto supportata a livello di sport. Altra criticità, trovare posti per l'allenamento specifico per la disciplina, anche se le due campionesse sono impegnate anche in imbarcazioni tradizionali dall'8 al 2 senza, sempre comunque assieme. Ci siamo conosciute per la prima volta nel 2021, abbiamo fatto barca assieme, non eravamo della stessa società, poi lei si è venuta nella mia società, abbiamo iniziato ad allenarci assieme e diciamo che quando abbiamo iniziato a fare barca insieme abbiamo stretto molto più un legame proprio di rapporto su come lavorare assieme e stare bene assieme. Le due sportive del Saturnia possono contare su un allenatore esperto come Spartaco Barbo, che le aiuta a crescere anche fuori dalla barca. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. Luigi Pavanna, professore emerito di psichiatria all'Università di Padova, condurrà l'incontro intitolato Ma il tempo esiste a Fiume Veneto, presso la sala conferenze dell'Ultimo Mulino in via Molino alle 17:30. L'Istituto regionale per la cultura istriano Fiumano Dalmata di Trieste presenta il volume Borgo e Rizzo, scritti dedicati al quartiere albanese della città di Zara in via Torino alle 17:30. Fulvio Senardi condurrà una conversazione sullo scrittore Boris Pahor al Circolo della Stampa di Trieste alle 17:30. Gli errori nelle relazioni con gli altri sono al centro dell'incontro con la psicologa clinica Paola Rigo nell'Auditorium Zanussi di Via Concordia Pordenone alle 17:30. La FIAB, Federazione Ambiente Bicicletta di Trieste, organizza l'incontro Svizzera, paradiso dei cicloturisti e dei ciclisti urbani alle 19 nella sede in Via del Sale. Federico Bernardini, archeologo e ricercatore ospite dell'incontro intitolato Turmun, fortificazione di confine dall'età del bronzo all'epoca moderna, alle 18 alla Biblioteca Comunale di Monfalcone. Dalla terra al piatto, storie di cooperazione, resilienza, biodiversità, benessere, l'incontro in programma al Circolo Nuovi Orizzonti a Udine alle 20. Giovanna Simonetti presenta il suo romanzo Il segreto della casa, Palazzo Badini a Pordenone alle 18. Il libro Perdere l'equilibrio, viaggio attraverso gli squilibri dell'Antropocene di Paola Favero sarà presentato a Tolmezzo alla sede del CAI alle 20:30. Guerra di aggressione e lotta di liberazione al confine tra Italia e Jugoslavia 1939-1945 è il titolo del libro presentato nella sala della regione a Trieste alle 17:30. Il libro di Cristina Mirante Primavera, cucinare, organizzare e ricevere gli ospiti verrà presentato presso l'Associazione La Luna di San Giovanni di Casarsa della Delizia alle 20:30. Il libro di Enrico Terrinoni La vita dell'altro, Svevo Joyce, un'amicizia geniale, presentato a Palazzo De Grazia a Gorizia alle 18:03. Il Museo del Mare presenterà la sua nuova collana dedicata alla cultura marittima in occasione della stampa del suo primo volume Trieste e le sue navi sotto il cielo di Timmel di Sergio Vatta, appuntamento alle 17:30 nella sala Luttazzi del magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Silvio Novembre, il coraggio oltre il dovere, l'incontro che sarà condotto dall'autore Gian Domenico Begliotti a Pordenone nella ex tipografia Savio via Torricella alle 18. Il giornale si chiude qui che grazie a Mauro Ciccarelli in regia e a Paolo Cassano in controllo, in segreteria, Samantha Gon. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15 da Maria Spezia e Sebastiano Franco. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.